attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ora attenzione, binario 10, cambio. Prova. Attenzione, binario 10, cambio. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, attenzione, binario 10, cambio. Ora, attenzione, binario 10, cambio. Prova, prove tecniche di trasmissione. Cambio. Si condivida con noi. C'è un canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Cattolino con cuomane. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Ora, attenzione, canale 10. Solitamente si regola a 9, perché per non sfruttarlo troppo, per non sfruttare troppo efficienti, di solito si regola a 9-10 watt al massimo in AM, e 21 ne dà in banda laterale. Sì, perché l'ho provato anche in banda laterale, infatti là mi sa che dava una ventina, forse hai ragione, da forse 9-10 watt in AM, forse li dà anche in FM 20 watt quello. No, non lo so, non ci ho mai fatto caso a quello, però io di Galaxy ne ho avuto 5, ne ho avuto. Adesso questo qui è riparazione, sono arrivati i pesci un po' dalla Germania e un po' dalla Spagna. Adesso come arriva il tecnico, perché fuori me li piazza. Così ingombrante, solo che ti ripeto, lui me l'ha data per solamente per provarla eccetera, perché diciamo con Antonello già siamo abbastanza amici e già si fida di me, non è che vada a toccargli niente, giusto l'ho collegata all'antenna qua. Diciamo che di avere le cose compatte, capito? Purtroppo quando non hai una camera apposita per fare queste cose non è che ti puoi allargare più di tanto, capito? Senti grazie, 10 in AM e 20 in banda laterale, confermo. Ciao Claudio, buonasera. Io mi sono fatto fare un mobile apposta, c'è tutti gli spazi, tutto è chiuso, non si vede niente. Avanti Claudio, anzi avanti Carlo, quindi saluti a Claudio. Claudio, buonasera. Ciao, buonasera a Toros. Mi stavo ascoltando da poc'anzi, ma stavo facendo delle cosette. Sì, si conferma. 10 watt, picchi di 12 in AM, 18-20 in banda laterale, AMFM 10 watt. La regolazione sua, se poi vai a toccarlo chiaramente ne può dare anche di più, ma non conviene mai toccarlo, assolutamente. Questo è un Galaxy Saturn Turbo, sto andando esattamente con 100 watt pieni modulati, 100 watt, avanti Gianni. La radio com'è? Vi piace? Buona? Gli ho messo l'MB più 5. Sì, va bene, sa. Saturn Turbo, lì c'è Saturn Echo modificato. Ormai no, non ce n'è Echo qua, non si chiama Saturn Echo questo. Questo è, si chiama Galaxy Saturn Turbo. Ormai è diventato Turbo, ma la scheda Echo l'ho fatta togliere, ce l'ho dentro il cassetto. Te l'ho già detto, a posto della scheda Echo, che non serve a niente perché fa schifo. Lì è stata messa la scheda con i due finali, capito? Che ci stava giusta. Così se uno lo apre dice ma non si vede niente, non modifica, non ne vedi. Kappa. Vabbè dai, io farò 3 turbo. Biturbo, sì già, 2 turbine, ne mettiamo 4 i finali. Kappa. No, questo è un esperimento, dai. Comunque va molto bene perché risuona bene. Tu immaginati quel 747, a me non me la lava questa potenza, se lo metto fuori, tutto chiuso, con i suoi cavi, cavetti, ne lava 80, 85, dentro ne da 100 pini, con la T250, non con il Rosmetro ZG e balevare, con la T250 della Kim, il wattmetro sta segnando 100 watt, anche di più, modulati anche di più. E beh Carlo, già restituito gli hai questo Galaxy? No, perché non ci siamo visti, poi in questi giorni ero impegnato, domenica non c'ero quasi tutto il giorno, ieri ho ripreso a fare mattine, oggi mattina, dopo pranzo mi sono tirato un pochettino a letto perché sennò sei crepato, domani è un'altra mattina e un'altra ancora, facciamo 4 mattine e 4 sere, per cui giusto il pomeriggio riesco a fare qualcosina e ascoltare un po' di radio a quest'ora, capito? Prima invece quando faccio il pomeriggio a volte la mattina ho più tempo eccetera, quindi entro di più. Sì, indubbiamente è un'ottima radio, ho visto che è bella, robusta, insomma c'ha un audio eccezionale, quello è tutto ok, capito? Senza dubbio ottima radio. La tua forse è il modello ultimo che era uscito, la Galaxy Turbo, vero Claudio? No, questo è un Galaxy Saturn Echo come quello che c'è Gianni, non come quello che ha dato a te Antonello, perché quello che ha dato a te Antonello, la foto che mi ha mandato, non è uguale a quello mio di Gianni. Quello mio di Gianni è tutto nero, anche i pomelli sono tutti neri, quello lì è i pomelli gromadi già, ma che cazzo di Saturn Echo è? Sto nero è bello, poi quello lì c'ha le luci verdi, boh, non ho capito, la mia ce le ha bianche le luci, il display è giallo, originale, cioè, non so, ma vabbè, bianche normali, non LED, le sue lampadine originali, tutto originale il mio. Vabbè, non so, vedi tu, se ci devi fare un pensierino faccelo perché qui è una buona radio e io adesso che la sto usando, prima non la usavo quasi mai, adesso che la sto usando mi sto accorgendo che è una bellissima radio, un grande ricevitore, un grande trasmettitore, funziona bene, ottimo per la truppa, vai già. Ehi, sì sì, vabbè, l'avevo curato già da tanto quello. Ciao, non ti vorrei il vittore. Se metti al massimo sembra stereo furico addirittura. No, ma è una bella radio completa. Addirittura chi prima aveva quella radio era un signore, era proprio un CB a livello alto. Ehi, ne abbiamo avuto meglio di queste. Non c'è problema. Io ce ne ho avuto tre di queste. Tre, questa è la quarta. Tre, questa è la quarta. Sempre così nere, eh? E poi vabbè tutte le altre basi che ne ho avuto un mare, cazzisci. Un mare, veramente un mare. Va bene, va bene. Avanti, oh, Carlo, riprendi. Io come al solito a quest'ora sono a casa, a riposo, e diciamo che prima sono uscito e ho visto che sta aumentando la temperatura e rispetto a ieri si sta un pochettino meglio e pare che nel fine settimana si possa arrivare anche a 27-28 gradi. Io stamattina stavo lasciando il prato, ho partito la maglietta e poi me l'ho tolto una certa ora perché c'è un bel caldo. Anzi, domani da una passata di decespugliatore al di fuori del giardino, giusto per pulire, e poi basta, poi non faccio più nulla. Aspetto che secchi fuori, dentro chiaramente invece di tagliare devo innaffiare, perché adesso tagli solo perché l'acqua bagna e fa crescere, ma poi quando inizia il tempo caldo tutte le sere lo tu hai in balle e cazzo devi innaffiare. Mamma mia, se usi abbia ho fatto tutto a cemento. Sì, quest'acqua la fa crescere l'erba, anche in fretta, perché appresso all'acqua poi se arriva il caldo sai come ti cresce, quindi ti conviene aspettare quando vedi che il tempo è stabile, che non piove più, al limite rasi tutto. Ho visto in campagna lì andando verso l'aeroporto, nel giro di pochi giorni sul bordo strada è cresciuta in maniera spaventosa, non si vedono più la segnaletica di bordo strada, nulla. Adesso lì l'ANAS taglierà tutto perché diciamo erba a go-go quest'anno. Registrato. Là, comunque io ho un consiglio da darti, dopo te lo dai, facciamo entrare il break, avanti. Ciao Claudio. Ciao Gianni. E Carlo, sono moderato. Torino Amsterdam, buonasera a tutti. Sì, ciao Tori, buonasera. Avanti Claudio. Che consiglio mi devi dare? Buonasera, chi è entrato? Il consiglio mio è quello di metterti il prato finto, così non devi tagliare più l'erba. No, te l'ho detto già, lo estende mia moglie per non calpestarla, lì non ne ho seminato. C'è un quadrato praticamente, ma piccolo, lo estende all'angolo, visto le antenne, già l'ha visto Carlo è venuto qua, lì ho fatto il prato, il finto prato, praticamente ho fatto mettere tre fogli di finto prato, e se no calpesta tutto, non cresce più, capito? Mentre invece tutto il resto è prato inglese naturale. Va bene, dai, Bianco, per me un attimo che mi sta chiamando mia moglie, riprendi o Carlo? Buonasera Tonino, avanti, Claudio sta rispondendo al telefono adesso, vai Gianni o Tonino. Riprendi su Tonino, dai, così ci dici qualcosa che sei scelto. C'è una radio che, ti vedo strano, ti sento già. Comunque io sto cercando un muratore per farmi un basamento in cemento, non molto grande, basamento intendo con la rete elettrosoldata, calcestruzzo, 3 metri per 2,50, alto 10 cm. Non riesco a trovare un muratore disposto a fare questo lavoretto. Sentiamo se posso chiedere io e poi ti faccio sapere. Immediatamente. Volentieri, perché io uno ce l'avevo che questi lavoretti qua li ha sempre fatti, no? Con roba di marciapiedi, con la rete elettrosaldata eccetera, ma so che è stato assunto da una ditta e adesso è fuori perché stanno costruendo, quindi non credo ti possa aiutare. Lui è di Uri, a casa mia mi ha fatto tutto il pavimento, bagno, cucina, è molto bravo, capito? Però l'ultima volta che l'ho cercato mi ha detto che non poteva perché era stato assunto e quindi gli veniva in salita. E vicino, ci ho provato con Gianni, vabbè, ho passato a Gianni. Comunque perché ho capito già tutto, diciamo, quasi parte del passaggio. Sì, ho chiesto anche Luca Flipper, quanto pare mi ha detto che purtroppo è malattia per causa coronavirus, vaccino, o così mi ha detto, pure non lo so. Niente, poi detto, chiamano e dice Dillo Emanuele, giustamente, ma Emanuele giustamente ha dolori, quindi neanche a parlarne, perché l'ho visto anche stamattina. E che ti posso dire? Boh, non lo so. Cioè, penso sia una mezza giornata di lavoro, una giornata intera, non me ne frega niente, quello che mi chiede, capito? Però, boh, che non trovo una persona a fare questo lavoretto, perché io prenderò tutto il materiale, però penso non c'è la persona, ho già pulito il posto dove devo farlo e vuole armato giustamente, ho una tavola di 10, ho tanti picchetti eccetera, e poi devo mettere anche degli anetti, perché là ci va la casetta che mi è arrivata stamattina, quella in metallo per forza attrezzi. Avanti già. Ehi, no, sto provo a dirlo a Luca Flipper che fa quei lavori lì, se sta facendo ancora. Ti ho detto che Luca Flipper, l'ho sentito stamattina l'altro messaggio, e mi ha detto che lui non può fare perché malattie per coronavirus. Ah, vabbè, io non ti ho sentito perché stavo cambiando radio, non so se te ne sei accorti. Tu capisci. E niente, boh, vabbè, vediamo. Poi metterò su Facebook, offro 500 euro per fare questo riquadro, vaffanculo, se ci perdo. Aspetta, Tony, magari qualcun altro ti potrà dare una mano. Forse Claudio, che da poco ha fatto lavori e magari ha contatto ancora con qualcuno e te lo può magari consigliare lui prima di metterlo su Facebook, magari così anche qua in radio qualcuno si può trovare. Io ne conosco, diciamo, ne conosco uno, ma è occupato adesso e lei, perché l'avevo contattato per un altro lavoro, è stato assunto da un'altra ditta e sta lavorando fuori Sassari. No, io ho un'impresa, ma non è di qua, di Alghero, ho capito che, però me l'hanno fatto il sabato e domenica, ma non penso che ne faccia. Cos'è che offri 500 euro? 500 euro offri a chi lo vai di rubrigio. Allora tu immaginate che a me sono 3 metri 3x3, 6 metri quadri, mi hanno preso 100 euro a metro quadro, senza la rete elettrosaldata. Claudio, io ho fatto la battuta a 500 euro, io posso dare anche 5.000 euro in questo momento, me ne hai capito? Però a me me lo fanno per una giornata di lavoro 100 euro e io gli regalo 500 euro, non hai capito? Quindi no, i prezzi non vuole dire a me, perché il muretto mi hanno chiesto a fare, per esempio, un muretto di blocchetti largo 80 cm per 1,60 m, me l'ha chiesto 200 euro, me l'ha già fatto io, in mezza giornata ho fatto un bellissimo lavoro, io sono in mezzo a queste cose qua, purtroppo c'è dei lavori pesanti, adesso non le posso fare, è quell'intervento che ho avuto, quindi li diranno, mi mancano, quindi non me ne frega niente, chi trovo trovo, lo metto su Facebook e quindi non è che dice a me mi hanno preso a tot, ma a te ti possono prendere anche 10.000 euro a metro quadro, a me non mi importa, adesso già i prezzi come sono, Claudio, quindi so già com'è la questione, c'è gente che la fa, se vado al centro storico non so quanto le trovo disoccupati, che hanno bisogno della fare la giornata, mi faccio un giro, dai, al limite, boh, vediamo, lo metto su Facebook, già le trovo gente lì. Ci sono padri in famiglia che hanno bisogno di farsi una giornata di lavoro e io gliele regalo 300-400 euro in più perché non me ne fotte nulla, non lo posso permettere, quindi c'è la pizza all'occhio. E allora che hai fatto la domanda, io ti ho dato una risposta, a me mi hanno preso così, oh, se tu c'hai zingari che te lo fanno, faglielo fare, se me la fotte a me. No, non è, no, io non gli ho mai fatto un problema di soldi, anzi, siccome qua c'era un'impresa, li ho chiamati e me l'hanno fatto. E mi hanno preso quello che mi hanno chiesto, gli ho dato, non ho chiesto niente, né più né meno. Né preventivo né nulla, me la fitta scema. Ce n'è un bel zingari comunque. Li cerchi e te lo fai fare, poi bisogna vedere se te lo fanno bene, se fra un anno, sei mesi ti si apre tutto. Questo è fatto a regola d'arte. E tra l'altro è anche verniciato con quella vernice epossidica verde anti-acqua e anti-scivolo, quindi va bene. Ok, cosa stavo dicendo, Carlo? No, quel modello lì del garage, che c'hai tu è diverso da questo, completamente. Lo stavo guardando dalla foto, è completamente diverso. Non lo so che serie è. Che serie è quella, Gianni? Prima della nostra, non è dopo. Mi pare che sia prima, non voglio essere, no, non sono sicuro, ma mi sa che è uscita prima, prima della notte. Eh sì, perché c'erano questi pomelliti cromatici, soffei. Io avendola io, quella lì, avrei tolto tutti i pomelli e li avrei fatti verniciare da Roberto con una vernice plastificata. Sarebbe uscita una canonata, non mi piace così, caro, capito? Questo è tutto nero. Se nera la radio sono neri anche i pomelli, già che diventano cromati i pomelli. Vabbè. Va bene. Ero fuori a fare una sigaretta a Castelfuori, che stavo rispondendo al telefono, ma c'è un caldo ancora allucinante. Sì, io sono uscito prima lo stesso e diciamo che la temperatura per fortuna è risalita dopo il calo dei giorni scorsi. Poi tornando a Tonino e a voglia che se ne trova qualcuno che per una giornata di lavoro già lo trovi, ma basta fare anche un giro lì dove ci sono le moto, Piazza Santa Maria, e qualcuno già te lo trovi subito per fare quel lavoro. Comunque no, Gianni, lascia perdere che non è per te. Niente, sì, io ci ho abitato anche il centro storico, conosco parecchia gente. Dopo, semmai, io domani mattina prendo lo scooterone e vado e faccio un salto. E poi Gianni, mi hanno chiamato proprio poco fa, un ex CB, mi ha chiamato un mio parente da Cagliari, per lo scooterone, ma dice trattabile? No, che ci ha fatto cadere la nuova. E poi, a me non mi danno mangiare, se lo vuole conferenza, se no ciccia, non lo tengo, non c'è problema. Oh, stavo dicendo, sì, il tuo galaxy è come il mio, uguale identico, tutto vero, ho già. Appunto anche identico, portalo qua, che io sto soffrendo che non c'ho, che c'è lo spazio libero. Ah! lascia perdere, che è permesso, va bene così. E quello è difficile che lo do, tutta la tua cosa posso darti ma non quella. E quello è bello, è l'unico bello, dai, che a me piace di più, dai. Poi visto c'è lo Smith con la paglia azzurra, è un bel colore, bello, vero, dai. Sì, ma è quell'armadio mura che ho costruito, capito, dentro là, a Nanna. Ci ho messo anche la luce, che è bestiale, Avanti, Cla. Fate, che sto facendo cosa. Avanti, Claudio, ma cosa, ma casa. Carlo. Antoni, sì, ho detto prima, non so se mi hai sentito, sicuramente lo trovi un operaio. Se vuoi provare anche lì a Santa Maria dove sono le moto, eccetera, lì conoscono tutti, capito? Fanno un giro di telefonate e te lo trovano in 5 minuti. Guarda Carlo, io sono quasi ogni giorno a San Servicchio, quindi. E so la condizione e la crisi che c'è. Se io mi metto soltanto entro un circolo, dico offro 500 euro, chi mi fa questo piccolo passamento, ci credi che mio si offrono 5-6 persone o 10 di colpo? Io 3 mesi fa ho fatto un bagno, ma non qua a Sassari, a Bonorra da mia suocera, e mi ho preso il materiale qua a Sassari, però, capito, e me lo sono fatto portare tutto in garage, e appunto mi serviva un motocarro perché in macchina non ci stava, c'era la roba ingombrante, sanitari, piatto doccia, eccetera, mattoni, per cui tutta roba pesante, ho detto in macchina non fa. E ho trovato il motocarro e anche gli ho detto trova un ragazzo che ti aiuti a caricare, eccetera, e con 50 euro mi hanno fatto tutto, hanno voluto 20 di viaggio e 50 euro per caricare e scaricare. In un attimino ho preso tutto, sono andati da Bricoman e mi hanno ritirato tutto, capito? E quindi quelle persone lì sicuramente hanno i nominativi di tante persone che possono farti quel lavoro. Lo sai chi lo puoi dire? A Luca Manicomio. Luca Manicomio, poi fratello mi ha fatto tutti gli spostamenti, Carlo, tutti gli spostamenti, i materiali mi portava, tutto quello che serviva, ha portato tutto lui, Stefano, c'ho anche il numero, se ti capita che devi fare qualche cosa, qualche trasloco, qualche questo viaggio avvisami e ti do un numero, ti tratta bene, a me mi ha preso 50 euro per carbonati qua, ma un autocarro di roba, capito? Se vuoi portare via due lavatrici, non lo vuoi chiamare, 900, due lavatrici che non me ne faccio niente, e le ho prese nuove, una per il cane e una roba per noi, non lo vuoi chiamare a portarle via quelli. Ho capito, forse so, ce l'ho pure quel numero di telefono, ma è una persona che ha lavorato questo Stefano fuori in continente tempo fa. No, è fratello di Luca, fratello di Luca, c'è il motocarro, capito? Fa queste cose. E poi Luca si fa lavori di muratura, un po' di tutto, è anche bravino, dai. È anche bravino. La sua specialità è in fatto proprio sintetico. Stava lavorando con una azienda di fatto sintetico, è anche molto bravo. Però facendo. Si arrangia a fare anche il muratore, lo fa anche bene, si impegna abbastanza. Via, ho capito, nel caso già ti chiedo. Sì, vai Gianni, ma hai cambiato radio Gianni? Perché prima uscivi un po' più compressa come voce. Questa qui è un'altra radio, sì. Questa qui è una radio omologata che c'è con 2 watt e mezzo. È bellina però, dai, è bellina, va molto bene. Ha anche l'eco, un effetto eco leggero, dai, non è troppo invasivo. Sì, quello è dal microfono, c'è il microfono con l'eco, dai. Poi volendo, se voglio, la faccio l'aumento anche di watt, ma la lascio così perché è stata regolata così sicuramente da chi me l'ha venduta per usare col lineare e non l'ho mai toccata. Questa qui va sia a elettrico a 220 che a 12 volt, se c'ha un tastino basta muovere quello e si è a posto. Ho capito, sì, già va bene che qua mi arrivi sempre fondo scala, capito, e siamo vicini, quindi che esci con 5 o con 50 è lo stesso, ti sento molto meglio adesso. Poi l'altra è la compressa perché ho l'abitudine di avvicinare il microfono molto alla bocca, con questo non lo fa, ma con la static se lo avvicina alla bocca te la rende compressa. Tony, ti piace questo? Come radio è molto migliore, 100.000 volte già. E l'altra è la Royce con la static, questo qui è l'Intec stazione base, ma con il Proxen. Già va bene. Andrà bene, sto pensando invece gira gira, ma lo faccio io ben già. Mi passo una carriola con la zappa, faccio l'impasto. E quindi, domani chiamo Francesco, il figlio di Piero Drago, che c'ha il motocarro, e faccio portare dentro la zanzata, 8 sacchi di cemento, 8 sacchi di sabbia e 8 di ghiaino. E vabbè, tanto, sono in prigione e non mi gusta la mucca. Piano piano, lì subì buona impressa, è vero buono. Se tu chiudo domani mattina, bene, se no ci rinuncio, te lo faccio io. Tony, non puoi fare espulsi, che c'è la gabbia, già lo sai, non è puoi fare espulsi, cosa stai a fare espulsi sovraumani? Quelli da sono lavori leggeri. La gabbia ormai mi sono già fuggiti, è biuta. Vabbè, se ne vuoi bisogno una ginocchia, guarda, ne ho 4 pulli che sono già a posto, mi hanno fatto l'altro uovo, adesso starò cominciando la seconda cova, sto svezzando gli altri, 4 ce li ho tranquilli. Gianni, mio cielo uovo non lo fa. Avanti Carlo. Sì, segui il consiglio di Gianni, trovati uno che non te lo fa fare nessuno, Tonino, se tu insomma non puoi fare sforzi, io ti consiglio anche io vivamente, non ti rubare va nessuno, trovati una, già lo trovi un ragazzo anche domani, penso, e a voglia, ti metti là a comandare, ti fai portare il materiale e finisce lì, capito? Vai Tonino. Vai Redina e non lo vuoi più indico, ma te sta cosa ragazzo? Ma chiama uno che te la fai fare, ma mica fatti cose, mi. Cazzo senza mettermi a impastare la ghiaia col cemento. Ho fatto 1 metro io, gatto, ci chiamato subito, io mettetevi, fate quello voi, invece buon viaggio, agio bagato e basta. Ma non sai quanto è pesante quel lavoro, mamma mia. Lo so, Cla, non è che vai di là e non lo vuoi fare, no, assolutamente. Allora io ho chiesto a qualche persona disoccupata, e cosa mi ha detto? No, sto prendendo il reddito, io ci ho attinata e quindi come lo faccio fare, mi deve un taglio. Va bene, non c'è problema, un altro. E tu dice, sono in ferie, e ho detto, vuoi fare un po' di soldi? No, sono in ferie, mi sto a riposo, adesso mi devo riposare, capito? Perché questo lavora fuori, in Corsica. Vabbè, quindi claro, ho detto, adesso provo domani al circolo, se trovo anche uno è bene, se no pazienza dai, non è che mi ammazza a me, ma ci ho fatto pure un blocchetto, ma ci ho fatto, quindi, e grazie a Dio, non so, è un lavoro pesante, non so se me l'ha già fatto Matessi, se non trovi nessuno, io mi devo piazzare questa casetta che mi è arrivata stamattina, tutta montata, in metallo, bella, e vedo dopo, se no forse mi ha chiesto tutto imballato dentro il cazzo, c'è una faccia lunga, no? Io ti capisco, le risposte sono quelle. Mia figlia ha sempre problemi quando le servono gli extratti del bar, tutte le mattine se le porta le dati. Fortunatamente c'ha altre amiche che non stanno lavorando e quindi la chiama il sabato e la domenica, capito? Però ti ripeto, non è un lavoretto, lasciati lì, il muro è muro, Ghiscio è una cosa allucinante, devi stare inchinato, una volta che giri poi a passare la vita, fa, devi batterti le quote per essere in piano, lascia perdere, devi fare il massetto, perché la rete per salvata secondo me la metti, se non c'è il massetto poi spacca il cemento, quindi. I singoli non ti preoccupare che li ho studiati e li ho fatti anche, quindi è così. Io ci ho provato una volta, ah, la faccio io un metro quadro. Uni amari di Venghia, ragazzi, ha giumullato tutto e sta giumando tutto in una mara. Ho chiamato questi amici di Alghero che c'erano in presa, sono in tomacchini. No, è provata, di entro settimana no, perché usciamo tardi al lavoro. Se ti va di sabato e di domenica. Sono venuti un sabato mattina e la domenica, perché senza fare sabato tutto il giorno, sabato mattina e domenica mattina, l'hanno finito alla grande. Laggio Bagardi e in più ho fatto anche una spuntinata, ma è un lavoraccio, credimi che è un lavoraccio. Lo so Claudio, sono in mezzo al mestiere lo stesso, io sono andato a Fiumezzato, in caffetteria lo so, questi lavori qua. Niente, il mio programma è questo, fare un bel vespaio innanzitutto sotto, poi retrosaldata, più che calci tutto sopra, c'è un bel lavoro, piace, e non spacca, capito? Quando che c'è la rete poi, e il vespaio sotto. Poi ci mette la guaina e poi ci va la casetta sopra, giustamente. E voglio fare un bel lavoro, che voglio fare, quando che lo fai, lo fai per sempre. E vabbè, purtroppo, cane di travagliare, salta addosso, già lo sai, no? Sono tre persone, e io sono disoccupato, non mi travaglio, tu vado a ticcarli, poi non ho una gara. E senti, amici, domani faccio due volte da tutto, se ho fatto. Avanti già. Sì, chissà quanti ce ne sono, poveracci che vorrebbero farlo, tu, e non si sa, vabbè. Io ci stavo pensando chi poterti mandare, ma ce n'è uno qua nel mio palazzo, ma non mi va di mandartelo, perché ha fatto dei lavori ad altra gente e non li sono piaciuti, quindi non te lo mando. No, tranquillo. No, Cimino non ne voglio neanche uno qua, con questi lavori qua. Cimino non ne cerco proprio assolutamente. Voglio trovare qualche padre disoccupato, ho capito, che affitti. O anche un... Guarda, io alla fin fine Giorgia chiamo mio nipote, che è bravissimo, aveva fatto altri lavori qua in campagna. E non mi costa nulla, gli davo 50 euro mezza giornata. Ma già sì, mi sta dando troppo. Fregatene, ho visto di fare il culo e non stai mai fermo. E veramente ce l'hai meritati tutti. E se io poi io 500 euro, viene correndo, capito? E se lo fa il sabato. E mi sa, ci sto pensando, ripensando, mi sa che lo chiamo e faccio prima. Ma lui è muratore? Sì. Allora fallo. Meglio uno di famiglia che magari uno che non sai come lavora. Se sai già come lavora, prendi a lui. Avanti a chi tocca. Forse Carlo, avanti. Tony, fatti portare il materiale, quando c'è ce l'hai lì, poi va subito chi ti fa il lavoro a dire guarda che c'ho la rete, la ghiaia, il cemento, la sabbia e si fa, capito? Però è pesantuccio, è perché impastare, anche se è 3 metri per 3 circa, comunque già la schiena te la spacca, soprattutto se sei fermo da parecchio, eccetera. Se trovi uno così è la cosa migliore, te lo fa a fine settimana, tempo di asciugare, poi ti mette la guaina e ci metti sulla casetta e fine della storia. Allora Carlo, sì, farei parte per il culo perché lo so, ma io non li faccio fare il passo in terra perché non voglio che c'è tutto i mattoni a incastro, quindi faccio fare un po' per volta nella carriola e con lo zappa, l'ho fatto già io, ma c'è poco fare in fretta e fai meno culo perché così scarichi, poi glielo posso anche dire io, lo posso aiutare anch'io, fare l'impasto non c'è problema, è una presenza, vedi una cariola, fai un bel lavoro e non ti fai mazzo, perché facendo in terra con la pala ti fai il culo, lo so già. Avanti Cla. Riprendo io, forse Claudio sta facendo qualcosa, sì, facendo così con la zappa fatichi di meno, e senza dubbio già è una buona soluzione, piano piano e poi quando è pronto rovesci la carriola, solo che prima ti devi fissare bene tutto, mettere a livello, tirare i punti, eccetera, e se trovi una persona pratica fai anche molto prima. E K. Cioè no, ma me ne posso essere bravo, dai. E ho ancora le tavole adesso e per fare il perimetro e dei picchetti in ferro. Ah, poi innanzitutto mi devo procurare degli anelli che vanno affogati al cemento, legato alla rete al muso. Gli anelli mi servono, ce ne vanno 2, 4, 5, 6. Servono per mettere il cavo d'acciaio e bloccare anche, diciamo, la casetta di metallo, perché non so a me, vero come dovete mettere la bocca in aria, allora al capo. E quelli ti conviene mettere i tiranti praticamente, no? Che la tengono bella stabile a terra, quelli ti conviene metterli così in fase di, diciamo, di rifacimento di questo piano massetto che devi fare, li metti lì così non stai a tassellare poi che devi bucare, lì te li fai, te li compri, te li fai mettere quando stai facendo la gettata di cemento. Sì, sì, ma portate c'era. Non ho sentito. E quindi già. Vabbè. Sarei venuto io a darti una mano, non c'è problema, ma solo con questo dolore al femore. Qua. Adesso in questi giorni, da ieri un po' mi si è alleviato, ma avantieri non ne potevo più. Gianni, non è il lavoro che fa per me e neanche per te, perché so come sei, ma stai scherzando. Tu devi solo fare i lavori leggeri, riposartemi, cucinare e mangiare profiterolo che è buono. Kappa, profiterolo quando i due si ingordo. E tanto ne ho due confezioni, anche due confezioni di tiramisù, dico, peso un po', poi gelati. E no, allora, quando c'è la glicemia bassa già me lo mangio contigo, dai, qualche parottolina la mangio. No, io ancora, vabbè, ne ho preso una vaschetta di quelle grandi, e poi ho preso i pinguini e ho un pacco di cornetti, ma se sono giaciti tutti. E tu metto che ne compravi i pacchi perché te li mangiavi tutti e vai là e te lo comparati. Osoni. Ma no, quando c'è caldo qualcuno te lo mangi, poi viene gente di uffi, capito? Qualcuno, te lo mangio una scatola, hai capito Carlo? I golosoni non si mangiano i dolci, a una certa età fanno male, io sono il primo, se ce n'è poi li finisco. Ma scusa un attimino, è meglio buccio che c'è da malanni, scusa, adesso che non sai cosa fare, ti viene voglia, certo lo devi fare, il gradasso, gustarlo, assaggiarlo. Gianni non è così, Gianni dice io quando compro una scatola gelata me ne mangio tutti sbagliato, io ne mangio una palotta di profiterolo oppure due chiari di cose oppure un cornetto, ma posso mangiarlo dopo 3-4 giorni, capito? Due volte alla settimana, non di più. No, così è troppo, poi fa male. Ma il profiterolo che a te mano, dillo, sarà una vaschetta. Gaffa, ci sono 8 pallottoline e tutto cioccolato. E ti rimani tutto, rimani poco. No, già, assolutamente, non sono ricordo così. Mangio una pallina soltanto, infatti mi dura molto a me. Vabbè, ma siamo fatti così, dai, c'è poco da fare. Quando tu, allora io i dolci non li ho mai cercati, a casa i dolci si prendevano solo alle feste, ai santi, oppure quando c'era qualche compleanno, se no non eravamo di quelle famiglie che ogni domenica porti le paste, eccetera, eccetera, no, quello no, quindi non li ho mai cercati. Adesso che non li posso mangiare, a me mi piace dei dolci. Guarda, quando c'è Monica è decoloso veramente, tu non ci credi. Io quella notte io avevo la glicemia bassa, mi sono mangiato due pallottole, veramente, due miglietti di crema. Lì ce ne sono andati, sì, ce le mangiate tutte, sì, e ciò, se vuoi ti fai ingrassare, vi. E già poi mi metto una volta a settimana, ce la posso mangiare, infatti lì vi, sono il sabato via e ce le mangio un bel. E tu la prendi per la gola. Ottimo di bianco, mi permette, devo rispondere al telefono, arrivo subito. Eia, eia, sì, va bene, dai, siamo qua. Cap, Claudio, ci si. E Claudio non risponde. Vabbè, ma ne hai messo molto di quelle là? Ah, quelle che ti ho fatto vedere? Sì. No, non le voglio, adesso sto usando questo qua, questo portacanale, questo presidente. È bellino, beh. Questo ho fatto arrivare da pure, ho fatto arrivare. 80 canali, ma quando? Quando l'hai preso? L'anno scorso. Questo è il pulsante che schiaccia, vado sui 40 canali, 80 canali, capito? Ah, ci ho capito. Ho iniziato nel KB1, poi c'è lo Zodiac. Ehi, vabbè, ce l'ho bene ogni tanto. Ehi, vabbè. E che ci vuoi fare? E poi c'ho il TM1000. Era con due strumenti, dopo. Io ho l'HP1000 comprato nuovo, perché c'era su internet, lo stavano vendendo 110 mi pare, a seconda mano, così magari lo prendi e non funziona, l'ho preso nuovo direttamente. Costava 207 euro su internet e io l'ho preso da Fusaro e mi ha fatto un buon prezzo. Niente, io mi ho preso l'antenna, me la devo prendere già, però adesso non ci sto pensando perché mi devo dedicare tutta la casetta che ho in colli, niente mucubizzani, insomma, me l'ho caricata io e me l'ho andata fino a casa e pesano 35 kg uno, sono 70 kg fatti, 32. Ma l'hai presa da Bricco? Ah, sta scherzando, se mi è arrivato un mattonino da fuori me l'ho fatto, l'ho ordinato tramite internet. Ah, ho capito. No, non lo sapevo, vabbè, perché le vendono anche lì da... E tutta la miera, è così, Cappa verde e sportieri sono scorrevoli. A me la grandezza alta 1,87 mi sembra, per 2,13 e per 1,67 la pareggio, non mi ricordo con esattezza. Sì, bella, bella veramente. Ora sono ordinata. 341 euro pagata. Io l'avevo piazzata col padrino della mia ex moglie, l'avevo piazzata in campagna sua, l'ha presa un bel grande per metterci gli attrezzi, avevamo fatto tutte le cose in cemento insieme e poi una volta asciutto abbiamo piazzato la casetta e gli ha fatto anche il pavimento in mattoni. Ma il capannone ci mette l'attrezzatura già. Quindi ci ho comprato un'altra, quella cieca circola che l'avevo venduta perché dove sono andato a abitare non si poteva usare, mi sono pentito, poi giustamente insomma la sono ricomprata di nuovo, troppo bella. Ma quanto l'hai pagata questa qua? Allora la prima che avevo comprato l'avevo pagata 119 euro. Questa in offerta 89 euro. Già va bene. Comunque se vai da Bricocina ce ne sono un bel di queste cose, le ho viste io l'altro giorno, perché sono andato a comprare il mangime per il cane. E tanto hanno lo stesso mangime e costa di meno. E l'ho preso lì. Non il mangime per il cane, cosa sto dicendo? La sabbiolina, quella che si mette sotto la gabbia, ho comprato, sto dicendo il mangime. Il mangime gliel'ho preso una volta, quello della Friskies, ed è buono quel mangime, è veramente buono. Comunque già, da Bricocina non comprare attrezzature elettriche, come io ho comprato, io le compro a Lido con la marca tedesca, che sono le migliori. Per questa circolare qua, se la compro a Bricocina non ti basta 300 euro, sono meccari. seghetti alternativi a 50 euro in su. Ma stiamo scherzando? No. Io da piccolino ci avevo soltanto 4 pannelli da 50 centimetri di larghezza, perché non li trovate neanche da brico mai. Perché mi serve fare i sportelli alla madre muro. Basta. Non puoi comprare altro, è tutto caro. Perché adesso hanno visto che c'hanno i clienti, quindi lievitano anche i prezzi. Avanti, Carlo. Sì, già vi stavo ascoltando, che sono rientrato, che stavo rispondendo a una telefonata, tutto lì. Continuate pure. Cavaga, va bene. Ok. E da brico me ne hai provato, brico, fer, quello di Porto Torres. Ah, per che cosa? Per la casetta? Allora, brico me innanzitutto c'ha tutto in legno, a me non mi interessa. Brico che non ci sono andato perché sono sempre più cari di fuori, quindi questa arriva da fuori e tiro da Milano e tiro una cosa, sono troppo soddisfatto e contento. Poi mi sono le recensioni che dice questo qua da solo non l'ho piazzata, ci ho messo 7 ore, però sono soddisfatto perché è una bellissima casetta. Quindi poi faccio il tornello, ci metto anche la luce dentro, capito? E poi ci metto anche l'allarme. Ho un allarme di una sirena che è talmente potente, quando ci vediamo te la faccio sentire, già diventi sordo. La metto all'interno, poi chiudo e poi se uno dovesse entrare, rompere il lucchetto, entrare dentro a rubare qualcosa, a me sarà un po' difficile entrare qua comunque. Difficile nel senso che c'è sempre gente, ma nel senso che bastano 3-4 secondi, suona, fate il casino. Ma la casetta dove la metti? Dove c'è il giardino? Bravo. Proprio su questo dove abbiamo piantato il pomodoro una volta. Ah, io ho capito, quindi non ne fai più di orticello. No, dopo il lavoro ci vuole, per carità. No. Tanto, a me ho troppi attrezzi, troppi già. È un casino, non so più dove metterlo, ce l'ho dentro l'armadio con le scatole, c'ho anche la pulimarmor, c'è ancora sigillata, penso a pomai aperta, c'ho quella a fare con il motore che è pigiante un mese per muovere il coltello, eccetera, eccetera. Poi, sempre con la marca tedesca, sempre scatolata. Poi c'ho la saldatrice nuova roba mai aperta, ho comprato il decespugliatore, è ancora scatolato, cioè non so più dove metterla, capire, ecco per il mezzo della casetta. Basta adesso, non ne comprerà più, se no ti riempi tutto, lo fai come con l'armadio che lo riempi tutto. E infatti mi ha pigliato qua e si è comprato troppo a me. E non fare che adesso te ne ricomprata le circolare e te ne riempi. Vabbè, dai. Adesso l'altra cosa che devi comprare è la macchina. Ma guarda, è da meccanico, sto usando il scuterone per quello. Da meccanico li tiro domani. Sto mettendo tutti i freni nuovi, dietro, davanti, le garage, e poi cose che stanno mettendo, le pinze nuove. Ma metto un bel lavoro perché questa macchina do poi a mia figlia. Sta prendendo la patente e automaticamente mi prendo poi la macchietta via. Te l'ha già presa la patente? No, si è appena segnata già. Ah, si è appena iscritta. E vabbè. E dove la sta prendendo? Via Pascoli? No, non me l'ha neanche detto, io ci ho dato dare l'acconto, qua te, 350 o 360, te lo atti, no, daglielo. Lì quando ritiro te vedo, no, non voglio tutto questo ragazzo, ti ha preso tuo padre, tua pasta, tranquilla. Quindi a questo punto ti do anche la macchina. Dice a me piace la 500, la capisci? Quando ne ho fatte tante, devo avere la motore, ma che c'ho io. Quando poi sarà più brava, si vedrà. Infatti, perché qui tocca da una parte all'altra. Una volta che è a posto la macchina, per girare in città va bene. Certo. Avanti Carlo, se no a furia soltare ti metto gli orecchioni, ti escono, ragazzi. Io stavo cucinando, io sono peggio di te, Tony, compra, alla fine adesso non compro più niente. Ho il trapano, un gattuccio di quelli che ci puoi mettere la lama buona, della Bosch, ti taglia tutto dal cartongesso a legno, eccetera. Poi c'ho una piccola moletta, le cose che servono, e una levigatrice di quelle circolari, ballerine. Diciamo. Dopodiché, non c'ho proprio niente, un piccolo avvitatore, avevo un sacco di cose tipo saldatore eccetera, non lo usavo mai, mi ero venduto tutto perché sennò avevo il garage ultra pieno, adesso mi è rimasto un sacco di spazio e mi sono organizzato un altro tavolo per poter lavorare, mi ho messo tutta la parte di elettronica, qualche piccolo saldatore, capito, una moletta piccolina e non prendo più niente, se no ti riempi tutto, capito? Ho sentito quello che hai detto prima, sempre comparendo insomma. Guarda, il dattuccio ce l'ho anch'io. Per la lama lunga, per legno o per ferro, che mi è servito, che l'ho usato anche a saccamito per tagliare un tubo da 2,5 pollici. Poi cosa ti posso dire? C'ho anche la sparachiudi. Sparachiudi, sparagraffette, elettrico, sempre di quella marca tedesca. Di molette ne ho 5, una l'ho legata a mio figlio. Di ballerine ne ho 4. Perché io sono il tipo, ti spiego, perché se ho trovato la sigaretta alternativa ne ho 3. Sono il tipo che ho detto fare un lavoretto, un momento non so dove l'ho messo, non me lo ricordo, ecco perché ho messo la casetta. Vado, subito vado e lo compro un altro, capito? Ecco, non parliamo di pistole per silicone, per carità, quelli non ci consiglio. Poi c'ho 2 palanchini, il materiale che ho è pazzesco. Non parliamo di cacciavitti, non parliamo di me. Qualche persona che ce l'ha quanto che fa in frequenza, che l'ha visto un po' di roba che c'avevo io, questo lo può dire anche lui. Se metto di chiamare carbone, ma c'è mai carbone, ma. Lo so, quando insomma servono le cose, le compri, poi ti rendi conto che ce l'avevi. A me è successo per un bel po' di tempo, poi adesso ci sto attento, per cui non compro più niente, perché con gli attrezzi che ho riesco a fare tutto, capito? L'avvitatore, insomma, quelle cosettine che servono per qualche lavoretto che capita. Il gattuccio è quello che uso in assoluto più di tutti, perché devo tagliare rami, perché anch'io qua mi occupo un po' di giardinaggio, abbiamo delle aiuole dentro il cortile, prima c'era uno che veniva, si rubava 1000 euro l'anno e non faceva niente, veniva 2 volte l'anno, puliva e se ne andava, ho detto ci penso io, per cui ogni tanto mi metto a pottare, ci sono degli alberelli eccetera, lo uso per quello. Mio cognato in campagna ha chiamato il trattore per arare un pezzo di olivetto che ha, da sottoterra ne è uscita una di quelle reti matrimoniali antiche, vecchie, non sapeva come farlo, ho portato quel gattuccio lì con la lama del ferro, l'ho fatta a pezzettini piccolini, l'abbiamo messo in una scatola di cartone, sembrava che stesse tagliando burro, è eccezionale il gattuccio, lo uso parecchio. Io l'ultima cosa che ho comprato, ti dirò la verità, ho preso la taglia siepi, veramente bella, 8 centimetri di larghezza e di taglio, elettrico, ho poi 2 matassi a 20 metri uno, che possono essere 40 metri, di prolunghe, quelle arancioni, con l'attacco ciucco. Guarda, fatti qua le siepi, per carità, cresce qua, e poi questa pioggia che ha fatto, guarda un casino. Oggi mi sono fatto la pulizia, dove va la casetta, e devo fare prima, ripeto, se non faccio il basamento non posso costruire la casetta. Comunque in campagna c'è sempre da fare, Carlo, sempre, non può dire oggi non faccio nulla. Vabbè, io mi dimo che hai uno in casa, e allora a volte per la notte mi stisce la macchia. Avanti Gianni, non ti rubi. Io ti volevo dire, se andavamo a pigliarci un caffè stasera, c'era il sole, e invece tu hai dormito. Io veramente non ho dormito un cavolo, perché ho portato la macchina al meccanico, poi mi ha chiamato per prendere dei pizzi perché non si trovavano, un casino, sono dovuto uscire con la moto, la parte all'altra. Non ho riposato niente, adesso sono appoggiato, ma per il caffè non c'è problema, io sono a piedi, devo venire con lo scooterone, devo venire. Vabbè, sono scherzato, comunque, era una bella giornata oggi, andare al quadrato lì, avere il caffè, fuori, quelli distesi, prendersi il caffè, stava così bene al sole. Distesi. Beh, se c'era anche 2 zanzine mi darà anche più bene. Vabbè. Avanti, claro. Qualche giorno fa ci sono andato io al quadrato con Antonello, ci siamo accomodati sul bancone, ci siamo bevuti 3-4 bottiglie. bottiglie di birra e poi ce ne siamo andati. Ho visto che hanno rinnovato tutto il bar lì, prima c'erano quei napoletani, adesso ha cambiato gestione, ha cambiato tutto, però è sempre grande come locale, i tavolini fuori in più ci sono adesso, già si può fare ogni tanto a andare a rilassarsi un po'. Carlo, che zona sei tu? Io sono tra via Luna e Sole, via degli Astronauti, via Dau precisamente. Va bene, adesso non so dove è via Dau, comunque. Via Astronauti sì, più o meno. Come ci sta arrivando lì? Ah, mi arrivi a fondo scala, Tony. Addirittura? Sì, mi riempi tutti i led, quindi sei 9 più 30, più o meno è quello. E come arrivo Gianni, più o meno? Così è già. Vabbè, io qua, fai vedere cosa arrivi, prova. Adesso dove abitavo prima però, quindi, quella zona alta. E gli arrivi bene, sempre a sud. Vabbè, comunque l'antenna, se te la devi cambiare, la puoi già ordinare. Una volta che ce l'hai, poi quando puoi la piazzi, così ti arriva e te la ordino io, dai. Però già, non la devo piazzare qua dentro, perché questo quando si finiscono la casa a fianco, pure che la tolgo, sennò dà fastidio alla figlia, le onde la crepano una sassa, ammazza in varia. La devo mettere dietro, quindi devono ancora pulire dietro, mi devo fare un rasamento, un bel plitto, affogare il tubo del cemento, come ho fatto qui, faccio solo due quintali e mezzo di calcestro, ci ho preso un po', dall'altra volta l'avevo fatto. Adesso l'avevo tirato con la moletta, adesso invece ce l'ho infilato dentro, ce l'ho 2 metri in meno del tubo. E niente, quando farò il punto poi con la tenera ci metto là, capito? Per adesso rimane così. Quindi, Carlo, comunque io sono fuori Sassari. Ma zona Canica, quella zona là? No, adesso zona San Camillo. E va bene, allora, diciamo in linea d'aria non sei molto lontano, perché io sono molto in alto e tutto aperto e quella zona ci arrivo a voglia. Sento gli amici di Sorso, io lo stesso Santiago 9 qua, tranquillamente. Sì, qua arrivano forte infatti. Sì, allora io sono negativo per Porto Torres, nel senso che mi sento, ma non con un segnale ultimo, Alghero zero, qualche volta pio, proprio zero. Porto Torres arrivo 5-7, non di più. No, io già ci arrivo bene, Porto Torres, Alghero, Muro, Sozzieri, già ne riesco a arrivare un po' anche abbastanza lontano, dai, già ho una buona posizione, una buona antenna. No, io ho una buona antenna, ma c'ho un'antenna che fa schifo, è riparata 2-3 volte, quindi non è che io non ti ho bossato, è anche troppo, sto usando un DM1000 per le stazioni perché viene troppo, capito? E così riesco a uscire migliore, diciamo. Come appena posso mi libero il pezzo di dietro, mi sto già mettendo un bel traliccio e se la piglia a luce. 7-8 metri traliccio metto e l'antenna. Ma se è lo spazio già lo puoi fare tranquillamente, Tony. Adesso che inizia il bel tempo non mancheranno le belle giornate, a voglia fare tutte queste cose. Adesso è il periodo giusto, arriva l'estate tra un po' e quindi giornate lunghe, soleggiate, la mattina presto ti metti e fai tutti questi lavoretti pian piano. E anche di ex l'estate puoi fare. Do una bella spinta, già c'era un bel attrezzo per l'estate. Ah già, l'hai visto bene, è quadrato là, dietro l'armadiamuro che ho fatto. Eia. Allora tu mi sa isso. Va a volare. Cava cava. Vedi, a te non ti interessa. No, io sono chietto. Se l'ho presa ma con su a buru. Vabbè, dai. E mica le stai 3 ore, qualche DX e fai buru. A meno che la corrente se la pagano loro. E adesso è così il cantiere, quindi cosa me lo dite? Poi la casetta già, a parte che va bene così, li metto con la guaina in collo, con la guaina per essere più, no, con l'acqua non li fa niente, va bene, non li fa niente lo stesso, ma gliela metto per sicurezza, e all'interno la coimento zonata col polistirolo. E così diventa bella casa, rifai il cappotto. Il cappotto interno, bravo. No, perché se lo tiri in tempo è una temperatura costante, capito? Poi con la roba che ci metto dentro, giustamente, già va bene, dai. Guarda che quelle casette non ci puoi entrare dentro d'estate perché scaldano, ma di brutto, cosa li puoi pulire loro? Si fa arrosto, puttana. No, tranquillo, fate il metto il bel copertone sopra il metto. E poi al centro, siccome l'avevo messo tempo fa quell'alberello di limone che non è mai cresciuto, forse perché l'ho preso dai cinesi tempo fa. Ce l'ho 3 anni, quindi neanche un limone, niente, altro 4 stagioni. Tolgo tutto, ci metto un bel gazebo di quelli ombrelloni che c'è la manovella, si aprono, delle giganti che l'ho già visto. 150 ce l'ho citata e non ho visto, me lo compro, cazzo, troppo bello. Ma è lì, aspetta, devi farti volare. No, ok, ci vanno tirando, ci va cosa, non preoccupate già, che io queste cose le guardo, non è poco così, no. Avanti Carlo. Sempre facendo, io lo stesso, mi ho ordinato una di quelle prese intelligenti, perché io lo stesso l'alimentatore è sempre acceso, perché come dicevo prima ho qualche problemino con lo spazio, quindi devo mettere tutto insomma in posizione.